cavallo da corsa, cavallo da soma, cavallo non ancora catturato. Lupo da branco, lupo da solo, lupo tanti agnelli, niente denti, che peccato, che peccato, che peccato, che peccato. Scimmia da spalla, scimmia da pianola, scimmia brava per la nocciolina. Toro da sagra, toro botta sola, toro solo andata da corrida. E amico che ti piaccia o no, è così, lo zoo è qui. Lo zoo e adesso è qui. Lo zoo è aperto e adesso è qui. Lo zoo è aperto e adesso è gratis ed è qui. Lo zoo è qui. Grasso, squali da piscina, iene ride spiene di motivi, civetta da spasso, cani a bocca piena, sirene da morirci se le vedi, mosche da merda, cobra alla catena, boiane sempre sugli stessi rami, faine da corda, vampiri di mattina, camaleonti sempre troppo uguali, amico che ti piaccia o no è così. Lo zoo è qui. Lo zoo e adesso è qui. Lo zoo è aperto e adesso è qui. Lo zoo è aperto e adesso è gratis ed è qui. Lo zoo è qui.